place of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. There's a guy without much experience who campaigned against much of what we put in place with respect to policy, not only in Iraq and Afghanistan, but also in the terror surveillance program and enhanced interrogation techniques and the... La voce che sentite giudica il presidente degli Stati Uniti senza esperienza. È un giudizio che, come dire, va in risonanza con quanto accade nei sondaggi internazionali, che mostrano una approvazione del 35% degli americani in relazione a quanto la Casa Bianca sta facendo in Afghanistan. Sparare su Obama in questo momento sembra una attività praticata negli Stati Uniti d'America, a giudicare dai commenti del giorno dopo al discorso fatto da Barack Obama nella Eisenhower Hall della Accademia di West Point. Abbiamo convocato due amici del nostro programma, ovvero Andrea Mancia, il vice direttore di Liberal, e Guido Molteto, il capo redazione esteri di Europa, per discuterne insieme. Ma io voglio porre un punto di partenza al discorso dicendo: in campagna elettorale Barack Obama ha affermato ripetutamente di considerare l'Afghanistan come il punto caldo, il cuore della zona di crisi medio orientale, in relazione all'intervento americano in chiave internazionale e in relazione all'intervento americano in chiave di sicurezza nazionale. A marzo, quando è stato prodotto un primo incremento di truppe con 17.000 uomini inviati in quella zona, ha detto sostanzialmente le stesse cose che ha detto ieri. Forse ieri abbiamo avuto qualche informazione in più in relazione alla operazione di rientro, di recupero di quelle truppe, con tutta la credibilità che discuteremo poi queste parole, queste previsioni possano avere. Mi sembra esista un dato di coerenza apprezzabile nella condotta della Casa Bianca in questo frangente. Eppure i commenti di oggi da destra lo criticano per le lentezze e i ritardi, e da sinistra lo criticano praticamente per tutto il resto. Ma io do il benvenuto ai miei ospiti. Comincerei con Andrea Mancia, vai. Ciao e buongiorno a tutti. Buongiorno. No, io sono perfettamente d'accordo con la coerenza fra le decisioni che finalmente ha preso Obama e quello, diciamo, di cui aveva parlato in campagna elettorale, la strategia che aveva tratteggiato in campagna elettorale. Oggettivamente si sono persi sei mesi, perché non cioè per aggiungere la postilla, diciamo, della exit strategy, che poi mi sembra una data un po' messa lì un po' per questioni elettorali, perché ci sono le presidenziali nel 2012, e un po', diciamo, per sedare la rivolta in corso nella base progressive del suo partito. Sinceramente sei mesi di meditazione mi sembrano troppi per prendere una decisione che era scritta nell'ordine delle cose, insomma. E di conseguenza cosa il tuo giudizio, ma sui giudizi soprattutto, sulle reazioni, questo voglio sapere. Diciamo le reazioni sono scontate. I repubblicani sono abbastanza soddisfatti, ma ovviamente, ecco, sottolineano il ritardo. Non potrebbero neanche, diciamo, applaudire a scena aperta, certo, così spudoratamente. La cosa preoccupante per Obama, secondo me, è la reazione che mi sembra veder serpeggiare nella base della sinistra del suo partito. Poi non vediamola come una minoranza, cioè è il caucus, quello progressive, che, certo, domina assolutamente la rappresentanza democratica sia alla Camera che al Senato. Io voglio vedere Nancy Pelosi riuscire a fare uno dei suoi trick per quando si parlerà di finanziare questo grande aumento di truppe in Afghanistan. 30 miliardi di dollari il costo per un anno di attività. Guido, quella piccolo cappello che ho fatto sulla, insomma, coerenza delle pratiche e delle scelte, lo condividi? Sì, Ma però è anche un limite da un certo punto di vista, perché secondo me Obama è rimasto prigioniero di un'affermazione che lui fece in campagna elettorale, poi ha ripetuto più volte, distinguendo la guerra dell'Iraq come una guerra di scelta e quella in Afghanistan come una guerra di necessità, quindi come guerra giusta. Lì secondo me è stato un po' mal consigliato a fare questo tipo di distinzione, anche se era anche quella frutto di una politica di attacco all'amministrazione Bush per indicare che il vero problema era in Afghanistan e non in Iraq, che avevano fatto una scelta sbagliata. Però tutto quello che è seguito è un po' la conseguenza di questa affermazione iniziale. E adesso è chiaro che questa è coerenza, certamente è coerenza, ma non è che bisogna essere coerenti rispetto a delle scelte chiaramente poco lungimiranti, perché adesso Barack Obama ha detto questo non sarà un Vietnam, è sbagliato paragonarlo con Vietnam. Io temo invece che sia proprio questo il problema. Ecco, cioè... infatti Guido, quello che dicono un po' tutti gli osservatori, soprattutto quelli che vogliono avere, come dire, un atteggiamento particolarmente scettico sulla questione, è in gergo americano sostenere che l'Afghanistan sia un'opzione perdi-perdi, ovvero sì. non esistono due facce sì. della questione. Lo pensi anche tu? Sì, purtroppo sì. Tra l'altro anche questo affermare una scadenza nel 2011 secondo me non regge, perché da questo punto di vista hanno perfino ragione i repubblicani. Vabbè, loro lo dicono perché è sbagliato porre una scadenza, perché dai un'arma in più al nemico, ma io dico che il solo fatto di mandare 30.000 soldati, McChrystal ne aveva chiesti molti di più, 40.000, addirittura 80.000, e di avergli dato anche meno tempo di quello che lui aveva chiesto, quindi chiede ai militari di più dando di meno, questo secondo me è una cosa che non può funzionare, quindi c'è il rischio invece di rimanere infognati lì dentro, questo è il problema. Ecco Andrea, infognato lì dentro nel 2011, che poi praticamente è domani, a tuo parere potrebbe essere anche la campagna elettorale, che a quel punto il presidente dovrà cominciare a considerare per percorrere la via di una rielezione? Dei motivi per cui lui ha dato la scadenza del 2011 è sicuramente perché lui, diciamo, conta di entrare nel vivo della campagna elettorale del 2012 come l'uomo che ha portato via i ragazzi americani dall'Afghanistan. Il problema è che in guerra in genere non si possono fare programmi a così lunga da un lato e brevissima scadenza dall'altro, a parte appunto il fatto che, diciamo, dare una timeline è sicuramente un elemento che può favorire una strategia difensiva da parte dei nemici, ma il problema vero è che lui ha dovuto mettere la timeline perché sennò il suo stesso elettorato se lo sarebbe mangiato vivo. Su internet, nei blog della sinistra, in queste ore c'è veramente altro che la caccia a Obama, insomma, fatta dai media repubblicani. L'elettorato di Obama si sente tradito perché è il Nobel per la pace Obama che ha raddoppiato le truppe americane. Cioè è la linea Michael Moore che sta passando, la linea Arianna Huffington che sta passando. Allora io non mi sento di poter desumere che quella sia la linea maggioritaria degli elettori del Partito Democratico, ma sicuramente se questa sensazione serpeggia fino al 2012, la speranza che i democratici possano portare alle urne un numero sufficiente di elettori per battere i repubblicani inizia a diventare qualcosa di veramente utopico, secondo me. Bene, la domanda conclusiva allora per Guido Molteto, ma insomma l'America progressista, Guido, l'America che l'ha votato, anche quell'America saggiamente centrista, insomma, che vuole scegliere, vuole osservare, vuole capire, ecco, ma da Barack Obama in questo frangente, in questa situazione, in questo contesto, che cosa saggiamente, per l'appunto, quindi senza fare teoria un po' sterile, si poteva e si doveva aspettare? Dunque da Obama secondo me si aspettano non la cosa cosa giusta. Obama persegue sempre la scelta giusta, e questo è anche, come dicevi tu all'inizio, in coerenza con quello che afferma, quindi trova sempre, e questo però li può provocare nemici da tutte le parti, facendo una ogni volta una scelta di compromesso. Secondo me i suoi elettori si aspettano la scelta forte, non la scelta giusta, cioè su alcune questioni dirimenti lui dovrebbe prendere una posizione molto più caratterizzante, che lasci il segno. Ecco, questo è probabilmente la critica che gli viene rivolta, dovendola riassumere in una frase. Ma in sostanza cosa sarebbe? O andare o restare o rinforzare? Le scelte lì non sono altre, no? Praticabili. Sì, il problema è certamente di tipo strategico, ma anche di tipo politico. Cioè, il problema è che lui deve dare ascolto ai sondaggi e a chi l'ha eletto, quindi andare via dall'Afghanistan, non ha altra scelta. Ma a questo punto la cosa diventa un po' complicata, ma ci torneremo sopra a parlarne anche naturalmente con i nostri ospiti, Mancia e Molteto, che ci hanno aiutato anche oggi nel derimere quello che, se non è un ginepraio, gli somiglia profondamente, perché la sostanza del discorso alla fin fine è che atteggiamento, atmosfera, temperatura interna e questioni internazionali stanno entrando disperatamente in frizione, e questo per il comandante in capo, in tutta la sua solitudine, come titola oggi un quotidiano britannico, può diventare un problema serissimo. You're so young and beautiful, and I love you so. Your lips so rare, your eyes that shine, shame the stars that glow. So fill these lonely arms of mine and kiss me tenderly. Buongiorno America. And as Commander in Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. After 18 months, our troops will begin to come home. E queste sono le due informazioni chiave che ha dato Barack Obama nel discorso di ieri. Finale di partita o escalation, titola una analisi di Ron Fournier, uno degli analisti di Real Clear Politics, per capire decodificare il senso del discorso di Obama. Ci si ragionerà a lungo. Comunque, se per caso vi sono sfuggiti i punti forti della questione, stanno nell'annuncio del rinforzo di 30.000 uomini per interesse vitale nazionale. Questa è la giustificazione che ha dato Obama, chiara e tonda, e va soppesata, va tenuta presente nel ragionamento. Obama dice agli americani: guardate che mando 30.000 uomini che ci costano 30 miliardi di dollari e ci costeranno X vite umane per interesse vitale nazionale, ovvero perché così facendo conto di proteggere la sicurezza degli americani in patria. Non è una decisione che ha preso alla leggera, ha detto, perché naturalmente i costi in vite umane e in denari sonanti gli sono ben chiari, ma considerare Al-Qaeda tuttora una minaccia è una priorità da cui non si può recedere. Ha chiesto di comprendere il ruolo centrale, cruciale, che il Pakistan continuerà ad avere in questo scenario. Ha chiesto e ha ribadito con crescente peso la condivisione del fardello, come ha detto, a tutte le nazioni amiche che partecipano alla all'avventura medio orientale, ha chiesto alle autorità afghane di non farsi più a sua volta vettore di assegni in bianco concessi appunto a un governo afghano che continua a non offrire le garanzie richieste, e soprattutto ha detto una frase, forse la frase più notata, più commentata agli americani, che come vedete dai numeri e dalle considerazioni che abbiamo fatto nella prima parte del programma stanno reagendo male comunque a questa mossa della Casa Bianca, ha detto: non è un nuovo Vietnam, non abbiate il timore che stiamo ficcando il paese, la psiche del paese e le vite di tanti giovani americani in una nuova avventura che sembra una palude, come lo sembrò per l'appunto il Vietnam una volta che ci si era entrato. Di fatto saranno più di 100.000 gli americani che da subito, perché l'operazione con grande soddisfazione del generale McChrystal ora correrà, prenderà le mosse immediatamente. L'obiettivo si cercherà di conseguirlo nei tempi più brevi possibili, nella speranza naturalmente di rispettare questa agenda che anche noi dal nostro piccolo osservatorio d'ora in poi terremo d'occhio con grande attenzione. Adesso alleggeriamo un momento i contenuti, perché poi gli americani no, si occupano anche di altre cose, e al di là di queste notizie così ponderose e anche così preoccupanti, per fortuna ricevono anche notizie di altro genere. Plain Coke, or did you spike them? No, just plain. Would you like one? E allora i talk show della mattina, per esempio, si occupano di una notiziola divertente, un po' commovente, e anche che si può condividere grazie alla tecnologia, perché è saltato fuori un nuovo filmato di Marilyn Monroe. Se andate sul sito di CNN facilmente troverete accesso alle immagini e potrete semplicemente guardarle. Sono immagini che risalgono alla fine degli anni 50, alcuni anni prima della morte di Marilyn, che risale al 5 agosto 62. Tra l'altro se ne parla tanto in questo periodo perché Marilyn è di nuovo oggetto di libri, di ricerche, di supposizioni attorno alla sua tragica fine, e anche di rivelazioni che escono dai materiali un poco alla volta liberati dagli archivi segreti dei principali enti di sicurezza americani. La sua fine, che peraltro è trasparente, insomma, viene rievocata molto di frequente. Questo filmino fatto da un'amica è un gruppo di ragazze che si divertono insieme, e una di loro semplicemente è Marilyn Monroe, però è anche un tuffo nel mito che naturalmente ben volentieri tanti di voi, suppongo, faranno. E poi un po' di notiziole sparse invece attorno ai fatti in prima pagina in queste ore americane, per esempio l'affair Tiger Woods, no? L'incidente misterioso di Tiger Woods, e poi un poco alla volta l'emergere di un possibile adulterio di cui il campione globale del golf sarebbe protagonista, ha un nuovo capitolo che consiste poi alla fine nelle dichiarazioni di questa Rachel Uchitel, questa ragazza, questa signora di 33 anni che sarebbe considerata, giudicata, indicata dai media americani come l'amante di Tiger Woods e quindi la causa delle mazzate che la moglie avrebbe mollato o a lui o alla macchina, non si è capito, ma insomma lì qualcosa di violento è successo. Ebbene, lei ha parlato con il New York Post, giornale quotidiano assai informato della grande mela, e ha negato assolutamente tutto. Ha detto: guardate, io sono una che lavora nelle pubbliche relazioni, sono anche una donna d'affari, conosco un sacco di gente, frequento un sacco di gente, parlo con un sacco di gente, ci passo anche del tempo insieme, tra questi c'è anche Tiger Woods, ma non vi sognate neanche di pensare che sia una storia d'amore, una storia di sesso, niente di tutto questo, non se ne parla neppure. Ha negato qualsiasi cosa. Mi fa sentire malissimo questa faccenda, e soprattutto la parte peggiore di tutta la vicenda è che non è vero. Infine emergono particolari sulla storia triste, nera di Seattle. Vi ricorderete, Morris Clemons, 37 anni, ha sparato a freddo su 4 poliziotti, li ha uccisi in un bar, poi c'è stata una caccia all'uomo che si è conclusa con anche la sua uccisione ad opera per mano di alcuni poliziotti che l'hanno individuato e hanno aperto il fuoco. Ora saltano fuori dei complici, sono due le persone, si chiamano Eddie Davis e Douglas Davis, chiuse in questo momento nelle prigioni di Seattle. Seattle sarebbero stati contattati e avrebbero giocato un ruolo nel tentativo dell'uomo di lasciare lo Stato. Anche in questo caso la polizia dello Stato di Washington naturalmente è durissima, dice probabilmente hanno giocato un ruolo nella vicenda, adesso sono nostri ospiti delle patrie galere, pagheranno per quello che hanno fatto. Di altre storie vi diremo domani, per esempio della progressiva formazione di uno spettro di candidature repubblicane in vista delle presidenziali. C'è grande discorso e anche molti nomi inattesi al riguardo. Ci torneremo sopra qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Roberto Scaltritti a Milano. La mail buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3. La replica dopo mezzanotte, la diretta domani dopo l'1:30 qui su Radio 24. State tutti bene.